a questa puntata di Mini Pimer. Ciao. Ciao. Siamo ciao. Alla terza puntata sul tema il femminismo e antifascismo. Il femminismo è antifascista, altrimenti è un'altra cosa. Questa sera, come avevamo preannunciato nelle puntate scorse, faremo un focus sulla repressione delle lesbiche nel periodo appunto nazifascista. Abbiamo con noi, siamo qua in studio io, Olga, Valeria, Silvia e Elena. Tutto l'appello, sì. Sì, beh, è carino. Sì, ricordiamo magari che le due precedenti si trovano pubblicate sia nel sito della radio che nel nostro blog mfla.noblogs.org, li ho fusi in un unico indirizzo, e quindi appunto per ascoltare le precedenti. Nella prima abbiamo fatto un discorso sostanzialmente collegato all'attualità, e poi questo approfondimento un po' più storico in cui la scorsa volta abbiamo parlato delle donne nel fascismo e questa volta parliamo delle lesbiche. Eccoci, andiamo direttamente. Ci diamo via. Sì. Aspetta. Ci sentiamo la canzone. Sì. E allora dunque ben trovate, terza puntata del ciclo, ormai può essere superate le tre, lo nominiamo così, sul perché appunto il femminismo è, almeno nella nostra lettura e speriamo anche nella vostra, ovviamente, ma insomma anche storicamente è così, è antifascista, altrimenti dategli un altro nome. E dunque la scorsa volta appunto abbiamo fatto un discorso con un approfondimento un po' più storico sulle donne durante il periodo fascista, e per riassumere molto molto brevemente abbiamo detto innanzitutto una cosa fondamentale, cioè che appunto le concezioni antifemministe del fascismo sono costitutive della sua essenza tanto quanto il razzismo, il militarismo, l'antiliberalismo. Il dominio fascista, diciamo, è qualcosa di differente, di nuovo, rispetto al patriarcato liberale, che pure era un sistema estremamente misogeno, però il fascismo, diciamo, organizza i discorsi su misogeni, le concezioni, poi moltissime derivate dalla Chiesa, antifemministe, in un discorso nuovo, moderno, che noi ci troviamo anche in buona parte a dover gestire ancora oggi, insomma. E quindi il fascismo sostanzialmente si configura come un nuovo sistema di sfruttamento a base sessuale che risponde a strategie di consolidamento del potere nazionale e imperiale, appunto, di quel periodo. E, abbiamo visto come il fascismo sia molto camaleontico. Una delle sue caratteristiche è proprio quella di passare da essere un movimento, diciamo così, eversivo, allo strutturarsi come partito unico e poi proprio come vero e proprio impero. In tutta questa gamma abbiamo rintracciato ampiamente, senza difficoltà, grossi contenuti misogeni, per cui il fascismo poi li riorganizza stabilendo delle alleanze fondamentali con la Chiesa da una parte, con i grandi proprietari terrieri dall'altra, quindi anche col potere economico, e per le donne è sostanzialmente comunque sempre molto repressivo, molto antifemminista, appunto, scoraggia la solidarietà tra donne, le inquadra in un in una serie di ruoli che poi si riassumono, come la Chiesa vuole, esatto, in ruoli di madre e moglie provetta. E quindi questa è, insomma, un po' la realtà che struttura le donne dentro il fascismo. In questa seconda trasmissione parliamo delle lesbiche durante il fascismo. Elena, aiutaci aiutaci ad articolare un po' questo discorso, insomma. Ma credo che per articolarlo bisogna fare un po' una premessa, insomma, generale su qual è stato l'atteggiamento del regime fascista rispetto, appunto, all'omosessualità e al lesbismo, perché diciamo che ha avuto una sua peculiarità rispetto anche alle altre dittature, al nazismo o anche Europa, al franchismo in Spagna, per dire, insomma, quelle che conosciamo di più. Poi, insomma, ci sono stati altri fascisti che ci sono più oscuri sempre negli anni 30, nel senso che anzi, forse bisogna fare una premessa che viene ancora precedente, cioè in Italia non c'è mai stata una legge che punisse l'omosessualità o il lesbismo, cioè dal momento in cui l'Italia è stato un paese unitario non c'è mai stata una legge, a differenza di molti altri paesi europei. E su questo c'è stato, insomma, come dire, sintetizzato un concetto che riguarda, diciamo, più l'omosessualità maschile che il lesbismo, che è quello della tolleranza repressiva. Per tolleranza repressiva si intende, appunto, il fatto di non rendere l'omosessualità reato, sostanzialmente, ma questo non significa che gay e lesbiche, usando peraltro due parole assolutamente non utilizzate negli anni 30, ma questo non significava libertà, insomma, ma anzi significava sostanzialmente la possibilità di rimanere nell'ombra, ma quindi anche nell'isolamento, nella vergogna, nell'invisibilità più assoluta, molto spesso anche nella solitudine, nel senso che si sapeva, evidente, siccome, come dire, c'è una linea di demarcazione abbastanza netta tra i paesi in cui è stata introdotta una legge e quelli in cui non è stata introdotta una legge repressiva. I paesi a maggioranza protestante del nord Europa hanno quasi tutti avuto leggi che hanno punito l'omosessualità come un reato. I paesi dell'area mediterranea a maggioranza cattolica, al contrario, non ce l'hanno avuta. Però se poi andiamo a vedere cosa è successo dopo, nei paesi, appunto, diciamo, a maggioranza protestante, parliamo dell'Inghilterra, dell'Olanda, insomma, del nord Europa, dopo si è sviluppato molto presto un movimento piuttosto forte, sono state introdotte, quindi, diciamo, libertà, spazi di vita molto diversi da quelli dell'area mediterranea. Quindi, insomma, tolleranza repressiva significa che si usano sostanzialmente altri dispositivi di repressione che non sono quelli una della strategia. Legge, ma innanzitutto bisogna pensare alla Chiesa, nel senso che poi voglio dire il fascismo è stata anche una dittatura, molti studiosi la definiscono imperfetta, nel senso che in Italia non è mai stato un potere unico, quello del fascismo, perché accanto al duce c'era comunque il Papa e anche il re, fra l'altro. Sì, tra l'altro, infatti. E quindi insomma è stata un po' più relegata la repressione all'ambito privato, sostanzialmente, ma questo non significa che sia stata meno... No, sappiamo che il non nominare è proprio una... Infatti poi una battaglia dei movimenti di liberazione è quella, la visibilità, la prima. Sì. Sì, perché chiaramente la motivazione che sottende è meglio non dire, non ammettere. No? Però nell'invisibilità io non posso creare poi delle reti, certo, delle alleanze, dei riconoscimenti, anche contarmi banalmente. Infatti, nei paesi dove è presente. Ma poi penso la che sono da sola io a casa, che ci sono solo io. E fra l'altro, noi sappiamo che sia nell'Italia liberale prefascista, quando è stato elaborato il codice penale, il codice Zanardelli, che nell'Italia fascista, quando è stato elaborato il codice Rocco, in entrambi i casi è stato discusso se introdurre un articolo di legge che punisse l'omosessualità. In entrambi i casi si è deciso di no, perché il silenzio è di per sé evidentemente un dispositivo di repressione molto forte e molto efficace. E tanto che, insomma, c'è un aneddoto abbastanza noto, insomma, che veniva usato come dispositivo repressivo il confino. Questo era un dispositivo possibile per pubblico scandalo, ma in Italia è stato poco usato, per quanto ne sappiamo è stato usato molto poco con le lesbiche, alcuni casi sono stati trovati, un po' di più per quanto riguarda gli omosessuali maschili, ma c'è un caso a Catania, un questore evidentemente più zelante di altri sotto il regime fascista, a un certo punto commina il confino a una trentina di uomini omosessuali che vengono tutti mandati alle Tremiti, ma questo questore a un certo punto viene richiamato da Roma, cioè gli viene detto: datti una calmata, perché questa cosa sta uscendo dal silenzio e quindi è meglio far tornare le cose come erano, sostanzialmente. Fra l'altro c'è da dire che la cancellazione del lesbismo è a livello planetario il primo, il dispositivo imposto alle lesbiche. L'esperienza lesbica viene cancellata dalla storia, dalle biografie delle singole donne e dalla storia delle donne in generale. Insomma, questo per i movimenti delle lesbiche è cosa assai nota, insomma. Il fascismo in questo appunto non si distacca, però ovviamente bisogna anche dire che in una società, come abbiamo cercato un po' di dire l'altra volta, estremamente ruralizzata e familista come quella che impone il fascismo, in cui appunto viene fortemente rafforzato l'istituto della famiglia, un istituto completamente gerarchico, in cui c'è un padre padrone, sostanzialmente, evidentemente la possibilità di viversi come lesbiche diventa veramente molto complicata. Abbiamo visto, insomma, parlando delle donne in generale che i ruoli previsti per le donne erano molto ristretti e molto precisi, cioè le donne dovevano essere le madri di famiglia, possibilmente molto prolifiche. La non prolificità era molto stigmatizzata. C'era una media di 7,5 figli nelle famiglie contadine in Italia in quel periodo. Non c'era poi il premio. I mariti, i padri prendevano questi assegni. Sì, prendevano i soldi. Cioè, avevi la famiglia che superava. Manodopera, insomma. Vabbè, sì, dovevi avere 7 figli per avere il premio. Per quello era proprio il premio di fertilità, bravo, insomma, in qualche modo. L'uomo che non faceva figli veniva stigmatizzato. C'erano le tasse per i celibi. Addirittura c'era la tassa per i celibi, insomma. Quindi, insomma, in questo contesto, ovviamente, vivere qualunque esperienza per le donne che non fosse quella prevista, cioè quella del matrimonio, della madre e moglie, era estremamente problematico e fonte, insomma, di condanna sociale. In questo appunto il lesbismo non è, come nello spazio pubblico, nemmeno preso in considerazione, insomma non è un'opzione esistente durante i vent'anni del regime fascista. Quindi direi che insomma il centro è questo, poi parlando del lesbismo sotto, com'era ecco, collocato e represso sotto il fascismo. Poi è anche vero ovviamente che delle cose si sono potute rintracciare. Senti, però tu hai fatto delle interviste, poi adesso magari facciamo uno stacco musicale e, certo, e come diciamo domanda che ci facciamo qui insieme era appunto in questa invisibilità che cosa si è potuto rintracciare, e gli studi poi sono veramente pochi e difficili, magari ce lo dirai anche un po', e poi come appunto possiamo immaginare che quali strategie, che tipo di presenza avevano le lesbiche in questo periodo, e parliamo appunto del ventennio fascista. Sì, il mondo, una canzone che al mio senso, vabbè, che non lo so, non so tutto, ma è una delle prime canzoni che parla apertamente di una storia tra donne. 1938, si chiama Voi che aspettavo, Susy Solidor. La voyante m'a prédit, vous rencontrerez bientôt quelqu'un qui changera votre vie. Et bien voilà, c'est arrivé, nous nous sommes rencontrés. C'était vous, vous que j'attendais, c'était vous, vous que je cherchais tout le long de ma vie. C'était vous que j'espérais, c'était vous que j'appelais du fond de mes rêveries. C'est pour vous que je vivais, pour vous que je me gardais, c'était vous qu'il me fallait. Dès la minute où je vous ai vu, j'ai compris que c'était vous, celle que j'avais tant attendu, malgré tout, c'est malgré tout. J'ai connu la volupté d'un rêve réalisé. C'était vous, vous que j'attendais, c'était vous, vous que je cherchais tout le long de ma vie. C'était vous que j'espérais, c'était vous que j'appelais du fond de mes rêveries. C'est pour vous que je vivais, pour vous que je me gardais, c'était vous qu'il me fallait. Je sais que des gens diront de nous, s'ils ne l'ont pas déjà dit, que s'aimer ainsi du premier coup, c'est de la pure folie. À quoi bon les écouter? Nous devions nous rencontrer. C'était vous, vous que j'attendais, c'était vous, vous que je cherchais tout le long de ma vie. C'était vous que j'espérais, c'était vous que j'appelais du fond de mes rêveries. C'est pour vous que je vivais, pour vous que je me gardais, c'était vous qu'il me Bentornate, siete sempre all'ascolto di Mini Pimer. Stiamo parlando di lesbiche nel periodo nazifascista. Sì, e vabbè, appunto abbiamo con noi Elena ormai da molte puntate, ce la stiamo tenendo qui. E stretta. Elena, tra l'altro, appunto ti abbiamo anche invitata a parlare di questo tema perché tu hai fatto una ricerca, insomma, hai fatto delle interviste di cui ora ci parlerai, si trovano nel libro Fuori dalla Norma. Poi daremo insomma altre indicazioni, insomma. Sì, fra l'altro insomma Fuori dalla Norma è una raccolta di saggi di varie autrici curato da Nerina Milletta e Luisa Passerini e il sottotitolo dice storie lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento, ma in realtà la maggioranza di questi articoli poi riguardano il fascismo, per cui insomma viene approfondito in particolare questo argomento. E io ho avuto direi la fortuna, perché è stato molto interessante e molto divertente anche, di intervistare alcune donne, sette per in specifico, che possono sembrare poche ma vi assicuro che non è semplice. Donne che hanno vissuto la loro giovinezza sotto il regime fascista e che di donne lesbiche, insomma, anche se usiamo questa parola in maniera propria e impropria al contempo, nel senso che anche chi di loro poi si è riconosciuta, diciamo, un'identità più costruita, che non dire semplicemente amore tra donne, all'epoca usava più la parola omosessuale. Ci hanno detto in maniera specifica che non lesbica, che è una parola che insomma in Italia poi viene recuperata con gli anni 70, insomma, con i movimenti delle femministe e delle lesbiche. E da queste interviste, appunto, che sono stati per me momenti molto emotivamente molto forti, insomma, conoscere queste donne sostanzialmente ottantenni quando io poi le ho intervistate. Sono anche donne molto diverse le una dalle altre, parte da chi viene da una famiglia altoborghese, quindi con tutti i privilegi della classe, e che sono molto determinanti in questo discorso, che insomma poi magari andiamo a vedere, alla piccola borghesia, che è anche un po' la piccola borghesia di provincia con gravi problemi economici dovuti alla guerra, e ha invece anche donne di ambiente rurale, sia contadine che invece la figlia del proprietario terriero, gerarca fascista, eccetera. Per rintracciare queste donne ho avuto bisogno, insomma, dell'aiuto di tante compagne che, insomma, che ringrazio anche da qui, insomma, una sorta di rete internazionale lesbica, ecco, per trovare queste donne. Però ecco, vengono fuori sostanzialmente, a me quello che è sembrato molto interessante, che poi in questo andare a vedere come in un ambiente, in un periodo storico, in una società così chiusa, queste donne hanno poi alla fine trovato un loro modo comunque per non rimanere incasellate nell'eterosessualità obbligatoria. Che si siano definite lesbiche o che non si siano definite lesbiche, sono riuscite a trovare la loro via sostanzialmente. Chi con più difficoltà, chi con meno, però insomma la via l'hanno trovata. E in questo, appunto, una cosa che va sicuramente sottolineata è il fatto che la classe è molto rilevante in questo discorso, nel senso che sia Gianna Ciao, la cito nome e cognome perché lei voleva così, insomma, dico voleva perché nel frattempo se n'è andata, sia Gianna Ciao, che era alto borghese, che altre invece che non lo erano, ci hanno tenuto molto a sottolineare che se facevi parte di certi ambienti sostanzialmente avevi una libertà, uno spazio di vita che altre non avevano. Beh, lo compravi con la posizione. Lo compravi con la posizione, per esempio, appunto Gianna Ciao, che viveva a Roma, figlia, quindi non viveva in un paesino di provincia sperduto, eccetera, figlia di una famiglia appunto molto ricca e alto borghese, eccetera, lei faceva l'università negli anni 30, insomma, c'era che questo non è che già, proprio fosse, esatto, comune. Ha comunque dei problemi abbastanza rilevanti con il regime, ma ce l'ha per la sua attività politica, nel senso che lei viene espulsa dall'università per attività sovversiva, perché faceva attività contro la guerra, cioè faceva propaganda contro la guerra. all'università e per questo insomma viene poi espulsa. Altri spazi di libertà ce lo dicono, ce lo dice lei, ma lo racconta anche per esempio Silva Mazzoleni in un film documentario sulle lesbiche sotto il fascismo di Gabriella Romano. Un altro spazio di libertà era quello dello sport. Ovviamente un altro spazio a cui avevano accesso soltanto alcune classi sociali, perché non è che le contadine facessero sport negli anni 30, nel senso che lo sport permetteva innanzitutto di star fuori di casa, di vestirsi in maniera diversa da come invece era imposto, perché ovviamente l'unisex non esisteva, insomma bisogna arrivare al 68 per cominciare a parlare di unisex per la moda, dico proprio. Mm-hmm. Invece appunto chi faceva sport poteva per esempio portare i pantaloni, cosa che può sembrare futile, ma in realtà insomma come dire, non è tanto, perché è molto, cioè un discorso che può essere anche un po' fuorviante, cioè nel senso non è che queste donne sono così, per farsi capire da chi ci ascolta, maschi mancati che cercano, come dire, la loro mascolinità, ma cercano la libertà che i maschi avevano. Certo. E che loro non avevano sostanzialmente, lo cercano attraverso una serie di simboli, di feticci o di strumenti che all'epoca erano tipicamente maschili, che possono essere i pantaloni, la macchina per chi aveva i soldi, la bicicletta per chi ne aveva molto meno, però anche la bicicletta insomma è un simbolo di, da una parte di mascolinità e dall'altra di libertà in questo contesto. Un'altra cosa rispetto sempre a questo discorso dei feticci, sostanzialmente uso la parola feticci perché lo usa Teresa De Lauretis per parlare appunto della mascherata della mascolinità da parte di alcune lesbiche, per il fatto che la divisa da giovani da giovani italiane, quindi l'organizzazione femminile fascista, che non prevedeva pantaloni, però prevedeva un mantello, un cappello, eccetera, per qualcuna ha significato sostanzialmente un simbolo di libertà, e che è una cosa molto che può sembrare molto strana. Però è anche vero che per esempio la Passerini, che ha fatto una ricerca sulla Torino operaia sotto il fascismo, trova delle testimonianze analoghe da parte di donne che lesbiche non erano, ma che in qualche modo questa partecipazione a organizzazioni di massa, certo, che pure erano estremamente militarizzate, estremamente controllate dal regime, però significava uscire di casa. E questo per le donne ovviamente significa tanto, sempre qualcosa. Molte aderirono, insomma non erano poche le donne, fu una delle ultime organizzazioni che il fascismo strutturò, e ci furono ovviamente moltissime resistenze anche a crearla, e fu fatto sulla spinta di donne che appunto poi inizialmente anche per questo motivo aderirono insomma al fascismo, e quando si aprirono questi spazi, se non altro di appunto di riconoscimento, uno spazio di visibilità, di inquadramento, un riconoscimento diverso dall'essere solo una madre prolifica, molte donne appunto lo abbracciarono comunque. E altre no, nel senso che poi per esempio la stessa Gianna Ciao, certo, per esempio racconta che per lei questa cosa del sabato fascista era un'oppressione terribile, ma anche perché lei di casa poteva comunque uscire, andava all'università, certo, si serviva dal sarto più in di Roma, da cui si faceva cucire i vestiti che voleva, e essendo il suo un rango sociale molto alto sostanzialmente se lo poteva permettere. Così come un'altra delle intervistate, che invece è figlia della piccola borghesia, ricorda di aver visto al Lido a Venezia, perché era veneziana, delle donne in pantaloni, ma lei ricorda dicendo: beh, quelle erano un altro mondo, cioè che non mi riguarda, cioè io non potevo nemmeno paragonarmi a quelle donne lì, le vedevo come un sogno da lontano. E lei si portava i pantaloncini corti in casa con grande stigma da parte del quartiere quelle poche volte che era uscita con questi pantaloncini. Sì, sostanzialmente mi sta venendo in mente, vabbè, che erano molto letterali, però Virginia Woolf, Vita Sackville-West, giustamente loro però appunto stavano proprio in un altro mondo, e quindi si potevano anche permettere delle libertà che queste non avevano, non solo, ma contemporanea a loro, a Virginia Woolf, a Vita Sackville West, sempre in Inghilterra c'è anche Radcliffe Hall. Radcliffe Hall è l'autrice del Pozzo della Solitudine, che è un libro che tutte le lesbiche italiane che hanno dai 40 anni in su hanno letto molto spesso come primo e unico libro, e quindi lo hanno odiato, ma nel senso che Il Pozzo della Solitudine, come capite, non è un libro leggero, insomma, che propone una visione così appunto easy del lesbismo, però in realtà è anche un romanzo molto bello, insomma, se poi si legge con la tranquillità di chi la propria vita, insomma, ormai si è ricavato lo spazio per viverlo, io ve lo consiglio, insomma, un bellissimo romanzo che fu censurato. Però appunto, mentre Virginia Woolf era una grande intellettuale riconosciuta in Inghilterra, contemporaneamente Radcliffe Hall nel 28 fu processata per perversione, il libro censurato e messo a rogo nello stesso paese, tanto che la stessa Virginia Woolf e il suo giro fecero una raccolta di firme in difesa di Radcliffe Hall, perché la Hall parla esplicitamente del lesbismo. E fra l'altro, rispetto alle intervistate insomma, di questo mio lavoro, insomma, io ho chiesto appunto che cosa leggevano, e questo Pozzo della Solitudine torna in più casi, perché sembrerà strano, ma sotto il regime fascista nel 30 il Pozzo della Solitudine viene tradotto e pubblicato in Italia, mentre in Inghilterra è al bando. È anche vero, nel resto d'Europa diventa famosissimo proprio perché viene censurato in Inghilterra. In Italia non se ne parla minimamente, però viene pubblicato e ci si può chiedere il perché. È anche vero che la censura in Italia, per quello che sono riuscita a capire io, è come dire, abbastanza tardiva sui libri, mentre prima si occupa per lo più solo dei giornali. E quando diventa, come dire, a pieno regime nel 38, va a colpire soprattutto i testi di autori e autrici ebree, e poi di testi politici antifascisti, mentre Il Pozzo della Solitudine probabilmente viene catalogato come una cosa erotica, forse pornografica, e come quello viene messo in commercio. Però quelle insomma, tra le lesbiche che io ho contattato, che avevano studiato sostanzialmente, che quindi avevano accesso a biblioteca, librerie, eccetera, ci arrivano a questo Pozzo della Solitudine. E anche qui per qualcuno è una folgorazione, perché è il primo e l'unico riferimento al fatto che non sono l'unica al mondo a avere questo tipo di desiderio. Per Gianna Ciao, che appunto alto borghese, che studiava inglese come autodidatta perché nella scuola italiana non si studiava, eccetera, commenta semplicemente: boh, una piagnona, mi sono annoiata molto. Visto che eravamo in questi luoghi di intellettuale, io continuo con chi cantava come lesbica, almeno in Francia, in questi luoghi. La Palma in 33, una canzone che è un po' meno esplicita dell'altra, ma comunque esiste. Je te veux cette nuit avec moi. Ti voglio questa notte con me. Le jour où dans mon cœur vibre le fol émoi de ta chair a semé le désir vert. Depuis mon cœur soupire, car il voudrait te dire ce chant divin. Cette nuit à bois, rêve dans tes bras, frémissant des mois. Je veux l'ivresse de ta caresse, si veux-tu, donne-la moi. De ta chair, je veux le plaisir, la passion, le violent désir. Écoute ma voix, chérie, donne-toi. Je te veux cette nuit à moi. Je me souviendrai toujours de notre belle nuit d'amour, où vaincu dans un baiser, à moi tu t'es donné, brisé. Depuis dans mon délire, je me prends à redire ce chant divin. Dans tes bras, frémissant des mois, je veux l'ivresse de ta caresse, si veux-tu, donne-la moi. De ta chair, je veux le plaisir, la passion, le violent désir. Écoute ma voix, cette nuit à moi. Dunque, torniamo in diretta e abbiamo chiuso con il pozzo della solitudine, e la solitudine sembra essere, insomma, dai discorsi fatti, uno dei tratti caratteristici in parte dovuti al fatto che il lesbismo, l'abbiamo detto per riassumere in due parole, è sostanzialmente passato sotto silenzio, e quindi appunto è, tra le altre cose, tu Elena che hai fatto queste interviste, è difficile rintracciare degli studi o della documentazione che menzioni le lesbiche, o che per cui insomma non a caso penso pure le interviste, perché gli studi sono pochi, insomma. Ma in Italia sostanzialmente di storia del lesbismo non esiste niente, cioè il primo libro che è uscito è questo Fuori della norma, dopodiché è uscito Resistenze lesbiche nell'Europa nazifascista, che è un'altra raccolta di articoli, insomma, curato da Paola Guazzo e altre che ha edito Ombre Corte, e poi basta, cioè nel senso. E questo, diciamo, è una responsabilità dell'Accademia che gli lasciamo tutta, perché in altri paesi, insomma, non è andata così, e un po' la dobbiamo ascrivere anche alle storiche femministe questa responsabilità, insomma, in parte. Ovviamente non vogliamo dare più addosso a loro che all'Accademia, però di fatto non, in questo paese le lesbiche non si studiano pochi anni fa, insomma, e non... E quindi, fra l'altro, è uscito assolutamente fuori dall'Accademia, insomma, non è che è un testo che è nato in ambito universitario, insomma, è nato fuori della norma per la caparbietà di Nerina Milletti, che è una compagna al movimento, insomma, poi ha avuto, come dire, la supervisione della Passerini, insomma, che è una storica delle donne importante, eccetera, però, insomma, all'università le lesbiche non si studiano, insomma, ecco, diciamo in maniera piuttosto stringata, quindi non si trova, cioè nel senso, quello a cui si può fare riferimento sono studi di altri paesi, ma che ovviamente non studiano l'Italia, oppure è tutto ancora da fare, da inventare. Ci sono una serie di studi biografici, quindi le biografie di donne famose, la Poletti per esempio, che sempre negli anni del fascismo eccetera, però è altro da fare la storia delle lesbiche, tanto che appunto una cosa che a me ha fatto molto piacere, che poi in queste interviste, per quanto poche, però insomma non sono tutte invece borghesi di famiglie ricche, ce ne sono alcune che sono anche proprio contadine, cioè una di queste, Iora, rintracciata proprio per conoscenza personale, nel senso che una donna che conosco si ricordava quando era bambina che questa donna viveva vicino a lei e che aveva avuto questa storia per anni con un'altra donna. Io sono andata a rintracciarla, purtroppo questa signora ha un Alzheimer piuttosto pronunciato, quindi non era semplicissimo parlare della sua storia sostanzialmente, però quello che sappiamo per certo è che questa donna aveva vissuto una storia con un'altra donna tra gli anni 30 e 40, in un cioè, essendo figlie di mezzadri sostanzialmente, quindi proprio i contadini dell'ambiente proprio tipico toscano, perché si tratta della Toscana dell'epoca. E un'altra coppia proprio invece, sempre intervistate nella bassa Toscana, anche lì a me è sembrato molto indicativo poi insomma di rapporti che si potevano costruire, e perché queste due donne erano una la figlia del padrone sostanzialmente in un'azienda agricola, ad un proprietario terriero, peraltro un gerarca fascista il padre, l'altra era la ragazza a servizio. Che fra l'altro quando io le ho conosciute vivono insieme da allora, però sempre, come dire, con questo rapporto asimmetrico insomma della signorina e della serva, per quanto poi ovviamente il rapporto sia da quello di una coppia, però con questa forte differenza di classe che 50 anni non hanno cancellato sostanzialmente. Ovviamente la signorina negli anni del fascismo studiava, andava in vacanza eccetera, l'altra rimaneva a lavorare anche quando lei si allontanava, e questa era la cosa insomma. No, un'altra cosa invece mi sembra molto interessante da citare, non è un'intervista che ho fatto io, ma è uno studio che invece ha fatto proprio Nerina, che è sempre pubblicato in Fuori della Norma. Nerina ha studiato il casellario della polizia, il castellario della polizia fascista insomma, andando a rintracciare alcuni fascicoli in cui tra le accuse c'è il lesbismo. Amori saffici si scrive in questi documenti della polizia fascista. Lei rintraccia due casi, uno di questi due casi riguarda Roma e riguarda due trasteverine di classe sociale, direi del sottoproletariato urbano della Trastevere degli anni 20-30, che per vivere facevano le prostitute clandestine, perché non erano dentro una casa chiusa, e quindi perché diciamo che anche questo il fascismo aveva fatto, tra l'altro, insomma, tra tutto quello che si può dire rispetto alla prostituzione nelle case chiuse, c'era anche il fatto che c'erano quelle che poi non ci rientravano nelle case chiuse, che quindi facevano una vita ancora peggiore, perché oltretutto dovevano appunto prostituirsi in maniera clandestina. E queste due che hanno avuto appunto, cioè quello che viene fuori leggendo insomma i documenti della polizia, purtroppo quello abbiamo, è che si legge di relazioni di forte solidarietà tra queste donne appunto del sottoproletariato urbano, e anche di storie d'amore che sono che addirittura proseguono dentro e fuori il carcere, o nascono in carcere e proseguono fuori. Addirittura c'è, a un certo punto si capisce che una delle due cerca di rimanere un po' di più in carcere perché vuole rimanere con l'altra, perché altrimenti gli sarebbe stata cambiata la pena dal carcere al confino, e quindi ovviamente questo rendeva più difficile insomma rimanere vicina a quest'altra donna. C'è anche da dire poi sul confino fascista, che sembra, detto così, una pena lieve, no? Quella che ti prendo e ti mando in un paesino in cima a un monte, ma quello che raccontano poi queste donne è della povertà assoluta ancora costretta a vivere, perché sostanzialmente ovviamente venivano mandate là, ma non è che gli veniva poi dato la possibilità di mantenersi. E quindi c'è, cioè, per esempio questo fascicolo che viene studiato in questo articolo, che passa anni a chiedere un cappotto con lettere ufficiali, perché l'avevano mandata in montagna, ovviamente non trovava il modo per lavorare perché era un'estranea. Sì, si viveva di stenti e tra l'altro, appunto, a maggior ragione stigmatizzate, o comunque questo almeno per gli omosessuali di cui si sa di più, appunto, che andarono in qualche caso al confino. Sì, tra l'altro venivano anche molto stigmatizzati in un contesto... Sì, è appunto il contesto, infatti, confinato, quindi sì, non era affatto una pena lieve, era terribile. No, fra l'altro il confino, per chiudere su questo discorso, siccome in questo paese le permanenze fasciste non finiscono mai, purtroppo, il confino è un dispositivo legale che in Italia ha continuato a esistere fino a tutti gli anni 60, cioè non si è chiuso con il fascismo, tanto che io ho letto l'autobiografia della Romanina, che è stata una delle primissime transessuali della storia d'Italia, la quale negli anni 60 è stata mandata al confino per un paio d'anni in un paese della Puglia che non ricordo qual è, e racconta appunto anche lei questa vita molto complessa, di essere stata mandata senza una lira, senza un lavoro, appunto in un paese dove era la pervertita sostanzialmente. Sì, no, quindi per niente facile. Silvi. No, mettiamo una canzone, sono le 21:01, così poi ci abbiamo. Lo so che eravate prese, le ho visto prese dalla discussione. Silvi? La canzone dal 24, Sai, Dora Stroeva. Je me donne la main des routes, tu me possèdes toutes, ta voix qui murmure et qui chante, se fait langoureuse et touchante, en l'écoutant mon cœur s'enchante, je veux croire à l'amour, tu sais les mots qu'elle a dit. Qui me font rêver les mots que je désire entendre, tu sais bien les trouver, tu sais aussi qu'il faut se taire pour ne pas troubler le mystère qui nous fait oublier la terre, tu sais si bien m'aimer. Si je doute de ta tendresse, dans mes yeux tu lis la détresse, tu l'effaces d'une caresse, et c'est pour moi l'ivresse, pourvu que jamais tu n'oublies les serments d'amour qui nous lient, quand j'évoque cette folie, calme ma douleur. Les mots qu'elle a détendre, ce qui me font rêver, les mots que je désire entendre, tu sais bien les trouver, tu sais aussi qu'il faut se taire pour ne pas troubler le mystère qui nous fait oublier la terre. Tu sais si bien m'aimer. le moulin et la route, le chemin, le torrent, c'est la rivière. Et toi, ce fut moi. Je sais, je complique ta vie, tu vivais bien à l'abri des jalousies de la terre. Être lassé, tu tenteras d'effacer les raisons qui nous enchaînent. Hélas, quelle erreur! Tu comprendras qu'en vérité, il n'est pas de volonté qui puisse imposer silence. Parlando di Saffo, il grecista professor Buzio disse che era considerata lesbica, frase che a me, come a tutti, risultò incomprensibile. E anzi mi dissi, se è nata a Lesbo, che cosa deve essere? Per me lesbica era un termine geografico. Poi capii che cosa voleva dire e solo anni dopo mi resi conto che appena aver detto il termine era stato un atto molto coraggioso del professore, dato che sull'omosessualità la persecuzione era feroce e la censura tripla. Allora, questa è appunto l'intervista. Lei, no, questo in realtà è uno scritto proprio. Ah, è uno scritto della Menapace, ecco, giusto? La Menapace è riportato, per quello è tra le interviste che appunto tu, Elena, hai fatto e che sono nel libro Fuori dalla Norma. E beh, sì, che dire, dice quasi tutto quello che abbiamo detto nell'introduzione, insomma, il tratto più caratteristico di come il lesbismo si configurò sotto il fascismo era la censura, l'invisibilità, appunto una censura tripla, insomma, e quindi il primo dispositivo messo in atto è quello dell'invisibilità. Poi abbiamo visto come a seconda delle classi, insomma, le possibilità di libertà e di manovra delle lesbiche nella società fossero diverse. Abbiamo parlato di alcuni spazi che loro comunque si prendevano, che erano un po' delle sacche di resistenza, spesso, come abbiamo detto all'ultimo, ritagliate anche per quanto riguarda le classi più povere, dentro quelle che erano le comunità delle disadattate, dei disadattati, delle anime perdute, come si diceva allora, insomma, le prostitute e travestiti, eccetera. E che in qualche modo poi, appunto, ci viene da dire, forse rappresentavano anche una rete di solidarietà, una possibilità, almeno appunto per chi non era borghese o alto borghese, di muoversi. E vabbè, abbiamo detto moltissime cose, potremmo leggere a questo punto forse anche delle parti di interviste, alcune in particolare. Sì, si vede per esempio appunto queste differenze di classe, mi cade l'occhio su questa parte che riguarda il vestiario, si vedono subito, insomma, Bianca, figlia di bottegai, quindi piccolissima borghesia, racconta, no, l'abbigliamento no, nel senso, dice, non era l'abbigliamento che contraddistingueva me o le altre donne lesbiche che ho incontrato, la postura neanche, perché l'abbigliamento era sempre con le gonne, un atteggiamento sempre femminile, si cercava indubbiamente anche di mascherare. E allo stesso modo Elvira, la veneziana, racconta appunto quello che vi citavo prima, quando andavo al Lido, dove c'era il famoso Hotel de Bain, la spiaggia degli aristocratici, se ne vedevano moltissime di donne in pantaloni, avevo 17-18 anni, andavo al Lido e là c'era l'Excelsior, c'era gente che veniva da tutto il mondo, c'erano donne di un'eleganza, vestite con pantaloni larghi, di seta, camicione fuori, insomma non era la borghesia, e per borghesia lei intende appunto la sua classe sociale. Gianna Ciao invece racconta: io andavo a cavallo e andavo in pantaloni, andavo agli allenamenti di nuoto e giravo con la tuta di atletica e poi facevo scherma. Quei vestiti, penso a 20 anni, 21, mi hanno giovato molte relazioni. Ero ammirata per i vestiti dalle donne, ero sempre molto ben vestita, mi cuciva gli abiti Saraceni, che allora era il primo sarto di Roma, mi faceva i principi di Galles, ne avevo molti di una lieve differenza, ma tutti i principi di Galles, con scarpe e stivaletto. Sempre lei, appunto, importante. Però poi grazie. Racconta, parlando della sua esperienza all'università: avevo rispetto per la donna vedendo come venivano trattate. Qui entra il fascismo. Non vedevo come le donne potessero stare sotto la frase fatta «date figli alla patria». Pensavo, ma come? Le donne devono fare figli per farli ammazzare? Quindi ero contrarissima alla nascita dei figli. Comunque, più tardi mi hanno espulso dall'università per sovversione. Dicevo no alla guerra, che le donne smettessero di fare le croce rossine, a rischiare al fronte. Fu un affare. Mi mandarono via, io parlavo con tutti, così ero solo io. Le altre avevano paura. Sì. E sempre per finire, appunto, con questa esperienza, poi Gianna Ciao, e anche qui si potrebbe aprire un altro capitolo successivo, forse un altro ciclo di trasmissioni, e cioè come è andata alle donne nella resistenza. Perché diciamo solo che le resistenti riconosciute come tali dallo Stato e dalle organizzazioni partigiane sono molte meno di quelle che poi la resistenza hanno fatto. E su questo, insomma, un libro per tutti è La resistenza taciuta, che se vi capita di averlo tra le mani io ve lo consiglio caldamente. Gianna Ciao stessa, appunto, io l'ho intervistata senza sapere che lei stessa aveva fatto attività antifascista negli anni 40, e la racconta così. Un giorno, passando dall'Argentina, una zona di Roma, vidi che la zona del ghetto era tutta circondata da tedeschi col mitra spianato. «Ma che ci fanno lì?» mi chiesi. «Io non sapevo che c'erano i lager. E il pomeriggio, quando tornavo, ero stata a casa di una conoscente, li vidi sui camion. Un tedesco appoggiato al casotto di guida e un altro in fondo, anche lui col mitra, e sta povera gente. Capii che non c'era niente da fare, noi non potevamo fare niente. E lì davvero mi invelenì e quindi feci parte dei gruppi che distribuivano i giornalini antifascisti in giro. Era meglio non farsi trovare perché fucilavano subito. Erano testi che davano notizie, politicamente ben preparati. Io ero col Partito d'Azione». Eh sì, e lei appunto non è tra quelle riconosciute, no? Che ha fatto tra le resistenti donne riconosciute. Vabbè, abbiamo appunto cercato di inquadrare, visto che hai nominato un libro, ripetiamo insomma i testi, pochi, tanto è un attimo, sulle lesbiche, la storia delle lesbiche in particolare si concentrano insomma sul periodo fascista, Fuori dalla norma di Nerina Milletti e Luisa Passerini, Resistenze lesbiche nell'Europa nazifascista di Paola Guazzo, Ines Rider, Vincenza Scuderi o Scuderi, mi devi scusare, non lo sai neanche tu, e poi ne avevamo nominato qualcun altro? Ora avevamo nominato La resistenza taciuta, che La resistenza taciuta, Bruzzone, sì, Farina, cura di Bruzzone Farina, ma non è sulle lesbiche, però appunto sono testimonianze di partigiane. Bene, e in chiusura di trasmissione, appunto, per ribadire che ai noi questi meccanismi di repressione sono purtroppo dietro l'angolo, o comunque fanno parte della nostra storia, sono stati così male elaborati dalla società che bisogna fare attenzione. Ricordiamo che a San Pietroburgo il Parlamento ha appena approvato una legge che cosiddetta contro l'omosessualità e la pedofilia, che insomma è già inquietante di per sé avere pensato di accostare questi due termini, è di fatto una legge che riduce al silenzio lesbiche, omosessuali, gay, perché vieta in assoluto di parlare di loro. Assomiglia moltissimo alle cose che abbiamo detto questa sera sul periodo fascista, che appunto, lo ricordiamo, non ha assolutamente niente di vagamente femminista, anzi sull'antifemminismo, la misoginia, l'eteronormatività, e quindi si basa con questo, che dire, forse ne facciamo è chiuso il ciclo, forse, forse ne facciamo altre, insomma. Ci sembra di aver dimostrato che il femminismo può essere solo antifascista. Ecco. Direi che l'abbiamo... Le puntate sono volute, ma ecco. Più chiaro di così. Speriamo, almeno allo stato attuale per noi. Allora, sono le 21:14, il mini primer di questa sera finisce qui, le trasmissioni del martedì proseguono e con il terzo orgasmo e poi l'Esisterhood is blooming. Silvi?